La principessa senza peso. Molto, molto tempo fa vivevano un re e una regina che desideravano avere un bambino. E, dopo anni, finalmente furono benedetti con la più bella piccola principessa mai vista. Tutti nel regno ne furono felicissimi e il re stesso scrisse gli inviti invitando tutti coloro che considerava importanti, amici e familiari, sacerdoti e maghi, per la cerimonia di battesimo della bambina. Ma il re aveva dimenticato un nome, una strega, la più potente di tutte, la più cattiva di tutte. Quando la strega venne a sapere delle celebrazioni, decise comunque di andare alla cerimonia. Il re non fu minimamente sorpreso di vederla lì, perché non aveva alcuna idea di aver dimenticato di mandarle un invito. Benvenuta! Dai una buona benedizione a mia figlia! Certamente, Vostra Altezza! Dov'è il piccolo angelo? Sua madre la porterà presto! Anche se era chiaro che il re non aveva fatto alcun male e l'aveva davvero dimenticata, il fatto rese la strega ancora più furiosa e giurò vendetta. Quindi, quando stava per iniziare la cerimonia dei nomi e l'acqua profumata doveva essere spruzzata sulla principessa, la strega mise segretamente una polvere magica nell'acqua. Non appena questa venne spruzzata sulla bambina, la bambina perse tutto il suo peso. Smise di essere influenzata dalla gravità. All'infermiera che la teneva in braccio, sembrò di non averla più fra le braccia, poiché la principessa aveva perso tutto il peso. In preda allo spavento, l'infermiera lasciò andare la bambina, ma la principessa non cadde. Rimase sospesa in aria. Mia figlia! Cosa è successo? Può significare solo che la principessa è stata stregata. Presero la bambina. Ma seppur possa sembrare che non sia un problema non avere peso, questo in realtà creò grandi problemi alla principessa e ai suoi genitori. Un giorno, mentre la principessa giaceva a letto, la regina aprì inconsapevolmente la finestra e se ne andò. Un soffio di vento entrò nella stanza e, come con una piuma o un granello di sabbia, portò via la povera bambina, fuori dalla stanza, attraverso la finestra. L'infermiera entrò e vide che la principessa non c'era. Dov'è la principessa? Voglio vedere la mia splendida figlia! Che sciocchezza! Ma allora, dov'è? E così iniziò una grande ricerca nel palazzo. Il giardiniere stava raccogliendo le foglie dal giardino, quando sentì delle risate provenire da un mucchio di foglie. Cosa? Cos'è quello? Per l'amor del cielo, è la principessa! Dov'è mia figlia? Vostra Altezza, il giardiniere l'ha trovata sotto un mucchio di foglie. Quel giorno, il re e la regina si spaventarono, così che da quel momento in poi tennero la principessa sotto controllo in ogni momento della giornata. Se dormiva, le sue coperte erano sistemate strettamente attorno al suo letto in modo che potesse muoversi a malapena. Se era sveglia, stava sempre tra le braccia di qualcuno. Una volta il re cercò di lanciarla in aria e giocare con lei, come fanno generalmente i padri forti. Ma la principessa non venne più giù e fu recuperata con una scala. Una volta cresciuta, la principessa riusciva a malapena a camminare, perché nel momento in cui abbassava il piede, anche con la minima forza, saltava in aria. Quindi doveva essere quasi trasportata mentre camminava. E aveva una coda di 20 servitori che tenevano lunghe corde che uscivano fuori dai suoi abiti in modo che non volasse via. Nessun peso significa che anche il cuore della principessa non poteva mai essere pesante, quindi non poteva mai esprimere tristezza. E tutto ciò che faceva quando non parlava era ridere. E quando non possiamo essere tristi noi stessi, non possiamo capire la tristezza degli altri. E se non possiamo capire la tristezza degli altri, non possiamo essere gentili, né possiamo sapere cosa significhi amare. Quindi la principessa era scortese e arrogante. Bambina, siamo così preoccupati per te? Sembri così divertente quando lo dici. Tesoro, non ti importa di noi? Non ci ami nemmeno un po'. Cosa significa amare e preoccuparsi? Sto bene mentre svolazzo in giro. Sembri così divertente quando fai facce così irritate. Ora, se mi volete scusare, me ne vado. Ma la principessa era triste, anche se per via della mancanza di peso non aveva provato tristezza. Odiava essere sempre accompagnata. Non potete lasciarmi sola? Siamo spiacenti, Vostra Altezza, ma abbiamo rigide istruzioni del re di tenerla d'occhio per timore che un soffio di vento la porti con sé. Per favore, mi sento come un animale al guinzaglio. Lasciatemi andare. Ci dispiace, Vostra Altezza, ma le loro maestà, il re e la regina, sono molto preoccupati che sarete portata via dalla brezza e che potreste farvi del male. La principessa si sentiva prigioniera. Come desiderava essere lasciata sola. C'era solo un posto in cui si sentiva viva e libera. Il palazzo si affacciava su un grande lago. La principessa ci nuotava ogni giorno. Solo qui non c'era pericolo che il vento la portasse via o che facesse un passo così forte da farla volare via. Quindi, mentre si trovava nelle acque del lago, poteva tranquillamente essere lasciata sola. Poteva davvero essere libera nel lago, quindi ci nuotava ogni giorno e ogni notte. Nel frattempo, il re e la regina consultarono ogni medico, dottore, metafisico, mago del regno. Ma nessuno poteva offrire loro una soluzione per la loro povera figlia. Fino a quando un giorno i loro studiosi, Humdrum e Copycat, vennero dal re. Vostra Altezza, potremmo avere una soluzione alla mancanza di gravità e peso della principessa. Dimmi presto! Bene, come tutti sappiamo, l'acqua sembra curare la principessa dalla sua assenza di gravità, almeno temporaneamente. Vale a dire, finché rimane nell'acqua. Lo sappiamo tutti, quindi... Se l'acqua che scorre fuori dal corpo della principessa può curarla e deliziare temporaneamente il suo cuore, allora l'acqua che scorre dal suo cuore potrebbe curarla permanentemente. Non capisco. Vostra Maestà, dobbiamo far piangere la principessa. Ciò potrebbe curarla della sua assenza di gravità. Quindi? Il re annunciò in tutto il suo regno che chi avrebbe fatto piangere la principessa sarebbe stato premiato. Tanti uomini e donne ci provarono, ma nessuno riuscì a farle versare nemmeno una lacrima. È così divertente! Tutti stavano perdendo rapidamente la speranza di riuscire a guarire la principessa. Accadde così che un giorno un principe stava passando per le foreste che circondavano il regno. Aveva sentito parlare della principessa stregata, ma non nutriva il desiderio di incontrarla. Quindi, quando venne la notte, invece di cercare rifugio nel palazzo come ospite, trovò una grotta nella foresta e decise di passare lì la notte. Mentre usciva nella foresta per raccogliere legna secca per fare un fuoco, vide qualcuno che galleggiava nel lago sottostante e pensò che la persona stesse annegando. Quindi si lanciò in acqua per salvarla. Ovviamente era la principessa e nel momento in cui la strinse e sentì la sua assenza di peso, capì che era la principessa stregata che non avrebbe mai voluto incontrare. Ma ora era troppo tardi, perché nel momento in cui l'aveva vista, si era innamorato di lei. Come osi sollevarmi fuori dal lago? Pensavo che stessi annegando. Quanto è ridicolo! Ora dai, rimettimi dentro. Tu sei la principessa che non ha gravità. Sei mai caduta? Non posso cadere. Posso solo essere trasportata dal vento e fatta volare. Allora, perché non provi a cadere con me? Così dicendo, il principe si tuffò in acqua con la principessa tra le braccia. E quella fu davvero l'esperienza più elettrizzante che la principessa avesse mai avuto. Come è stato? La cosa più meravigliosa che abbia mai provato. Quindi, il principe e la principessa si incontrarono al lago ogni notte e nuotarono assieme. La principessa non era in grado di amare, ma il principe l'amava così tanto che viveva per ascoltarla ridere e vederla nuotare felicemente accanto a lui. Poteva vivere così per il resto della sua vita. Ma il destino aveva altri piani. La strega scoprì dell'amore della principessa per il lago e quindi lanciò un incantesimo sul lago per farlo seccare. Lentamente, a poco, il lago iniziò a morire e con esso anche la principessa. Che cosa succederà a nostra figlia? Sembra che la vita della principessa sia legata a quella del lago. Se non rianimiamo il lago, non saremo in grado di rianimare neanche lei. Un giorno, quando il lago si era quasi prosciugato completamente, a parte qualche pozza profonda, due giovani trovarono una lapide d'oro sotto una roccia che recitava: «Se il lago deve vivere per il bene degli uomini, deve essergli allora permesso di prendere la vita di un uomo. Ma quell'uomo deve essere disposto a offrire la propria vita volentieri. Deve sedersi sul letto asciutto del lago fino a quando l'acqua salirà molto sopra la sua testa». Quando il re venne a conoscenza di ciò, mandò un messaggio in ogni angolo del regno. Ma nessuno si fece avanti per dare la vita al lago. Quando il principe, che era nel cuore della foresta, in qualche modo venne a conoscenza della richiesta del re, si recò immediatamente al palazzo. «Vostra Altezza, io offrirò la mia vita al lago, ma a una condizione». «Quale?» «Voglio che la principessa sia presente mentre muoio e mi mantenga in vita fino a quando l'acqua non sale sopra la mia testa. Voglio che mi guardi e mi dia da mangiare i biscotti, in modo che io non muoia di fame prima che l'acqua si alzi». «La tua condizione sarà soddisfatta. Forse rivedere il suo amato lago potrebbe far provare qualcosa anche a mia figlia». Quindi il principe si sedette sul letto del lago. La principessa fu portata su una barca. Vide il principe, ma non lo riconobbe perché non aveva né amore né gentilezza nel suo cuore. Mentre il principe sedeva, l'acqua cominciò lentamente a salire. Presto arrivò alle sue ginocchia e quando la barca sobbalzò un po', la principessa ne fu deliziata. «La mia barca galleggia! L'acqua sta salendo! Il mio lago non sta morendo! Possiamo nuotare di nuovo qui! Principe, nuotiamo insieme, proprio come una volta!» «Non c'è niente che io voglia di più che nuotare ancora con te, ma non posso, perché devo morire perché il lago possa vivere, in modo che tu possa vivere». Per la prima volta nella sua vita, qualcosa scosse il cuore della principessa. Non voleva che il principe morisse. Quando vide che l'acqua si alzava lentamente, prima fino alla vita del principe, poi al suo petto, poi al suo mento, poi al suo naso e lui iniziava ad ansimare, non riuscì più a sopportarlo. Si tuffò in acqua e tirò fuori con forza il principe. Quando lo portò a terra, aveva smesso di respirare. La principessa fu presa dal panico e pianse. Pianse forte come nessuno aveva mai pianto prima. I dottori vennero e si occuparono del principe. La principessa chiese che fosse messo nelle sue stanze. Anche la principessa, malata, fu portata a palazzo e fu una notte lunga e terribile nel palazzo reale. La mattina dopo, la principessa si svegliò. Il principe rimase immobile. Lo vide e versò ancora qualche lacrima. Oh, coraggioso principe, svegliati! Svegliati, per favore, non morire! In questo modo, il principe aprì gli occhi e sorrise. Felicissima, la principessa si alzò dal letto, batté forte il piede per la gioia, aspettandosi di volare via per la gioia, ma invece cadde! Au! Sì, l'ho visto! Ci fu una tale gioia nel palazzo come non si era mai vista al mondo. Il lago era pieno fino all'orlo. Il principe era vivo e vegeto e la principessa aveva riavuto la sua gravità. Doveva imparare a camminare, ma in breve tutto andò bene. Il principe e la principessa erano innamorati, si sposarono, nuotarono, camminarono e governarono la loro terra insieme e vissero felici e contenti.